5 e. Ascolta e rispondi. Credi alle mie parole? Sì, ci credo. Rinuncerai alle vacanze? Sì, ci rinuncerò. Giochi spesso con i bambini? Sì, ci gioco spesso. Pensate spesso agli amici? Sì, ci pensiamo spesso. Riuscirà a finire il lavoro? No, non ci riuscirà. Hai impiegato molto tempo a capire il problema? No, non ci ho impiegato molto tempo. Hai fatto attenzione alle indicazioni stradali? No, non ci ho fatto attenzione. Tieni molto al suo parere? No, non ci tengo molto.